E adesso? Le disse. Vi accompagnerò sino alla fine del viale. Dove si trova casa vostra? A Kokense, rispose Ingeborg, trotterellando per stare al suo passo. È il prossimo villaggio. Io sono la moglie del pastore. Ingram, un celebrato artista che a quel tempo aveva 35 anni ed era già noto in Europa, non solo, ma specialmente quale autore di sorprendenti, a onor del vero, talvolta inquietanti ritratti, le gettò un'occhiata dall'alto della sua statura e prese a camminare ancora più veloce. Ecco qualcosa che sembra divertente, disse. È nuova. No, non è nuova. Lo sono già da 18 mesi. Perché pensate che sia divertente? Perché è diversa da ogni altra. Prima d'ora non avevo mai sentito parlare della moglie del pastore di... Come avete detto che si chiama? Kokense. Kokense, Kokense. Piace. Siete speciale per il fatto di vivere a Kokens. Nessun altro ci è mai riuscito. Non è stato molto difficile. Mi è bastato rimanere passiva e lasciarmici portare. E a loro non è dispiaciuto? Loro chi? La vostra famiglia? Vostro padre? Vostra madre? Oppure siete come Melchizedek che non avete mai avuti? Perché avrebbero dovuto dispiacersi? Perché ve ne siete andata così lontano, in un angolo sperduto della terra, a ridosso del confine russo? Ma sono stata io a volerlo. Certo, non pensavo che vi foste lasciata trascinare di peso per i capelli fino a Kokense. Vi accompagnerò fino a destinazione. Voglio vederla questa Kokense. Allora non camminate così in fretta, disse Ingeborg ansimando. Non ce la faccio a tenere il vostro passo. Nel rallentare, egli la scrutò. E questo è l'effetto che Kokense fa sulle persone, chiese. Perché non riuscite a camminare come me? Siete solo una ragazza. Non sono affatto una ragazza, sono una madre. In realtà sono già tutte eccetto che una suocera e una nonna, ma credo che entrambe siano condizioni piuttosto noiose. Non penserete la stessa cosa quando ci sarete arrivata. Arrivarci poi è la parte più tremenda. È un piacevole trucchetto che gioca il tempo. Siete una vera moglie di pastore, di quelle che vanno in giro per la parrocchia dando il buon esempio? Non ancora, ma lo sarò presto. Cosa? Non avete ancora iniziato in 18 mesi? Ma che cosa fate tutto il giorno? Cucino e faccio anche dell'altro. Si trovavano fuori all'aperto, sulla strada che serpeggiava fra i prati. Improvvisamente Ingram si arrestò per fissare un punto sulla loro sinistra, sul viso un'area di concentrata attenzione. Ingeborg seguì il suo sguardo, ma non riuscì a vedere molto. Una leggera coltre di foschia sospesa sopra l'erba, i rami striminziti della sommità di un salice che ne emergevano e soprattutto il cielo che andava scolorendo. Egli non disse nulla e subito riprese a camminare ancora più veloce di prima. Rallentate un po', vi prego, lo implorò Ingeborg con il cuore che batteva all'impazzata per lo sforzo. Sono certo che riuscite a camminare più veloce di così, disse Ingram aggiustando il suo passo a quello di lei. Sì, disse Ingeborg. Suppongo si tratti di uno degli svantaggi di vivere in un luogo come Kokense, dove uno perde presto ogni tonicità. Sì, disse Ingeborg. Non dovete farlo, sapete. Immaginatevi di perdere la linea. Pensate solo alle orrende traboccanti curve di una donna grassa. Sì, disse Ingeborg. Dipingete molto? Gli chiese, incapace di sopportare quella parte di conversazione. Lui la guardò e scoppiò a ridere. Sì, parecchio, le rispose, poi aggiunse: Io sono Ingram. Vi chiamate Ingram? Io Dremmel. Edward Ingram, le disse osservandola. Gli sembrava inconcepibile che lei non sapesse. Ingeborg? Dremmel, gli rispose, come se fosse una gara. Egli rimase un attimo zitto, poi si arrestò all'improvviso. Penso che mi fermerò qui, le annunciò. I Glambeck si staranno chiedendo che fine abbia fatto. Il figlio mi ha invitato qui per un paio di notti e non posso essere assente per tutto il tempo. Ma non desideravate vedere Kokense? Posso chiedervi se a Kokense c'è qualcuno che legge? Che legge? Sì, giornali, libri, testi di critica d'arte. Riguardo a ciò che l'umanità sta facendo nei milioni di luoghi che non sono Kokense. Su chi è chi? Sulle idee che vengono concepite e realizzate in tutto il resto del mondo? Nel porle quelle domande, egli aveva una strana espressione, come impermalosita. Robert porta a casa il Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Io poi sto leggendo Kipling. Kipling? Beh, arrivederci. E Kipling non è. Se penso che fino al momento in cui mi sono sposata non ho letto altro che le litanie. E perché? Le litanie, i salmi e tutto il resto. Perché sentivo di saper poco al riguardo. Immagino. Io comunque non perderei altro tempo. Mi darei subito da fare per colmare le mie lacune. Arrivederci. Oh, vi prego, non andate. Sono passati secoli da quando. Ma come colmarle? Che cosa dovrei fare per leggere, leggere e ancora leggere? Tutto ciò su cui riuscite a mettere le mani. Sì, se non fosse che qui non c'è nulla su cui metterle. Mia cara signora, in questo luogo non esistono cartoline postali? Scrivete a Londra e abbonatevi ad alcune riviste, vi saranno recapitate a casa. Fatevi un'idea delle persone che abitano il mondo e delle idee che queste generano. Arrivederci. Ma siete proprio sicuro di non voler venire a vedere Kökensee? Mi sembra un luogo scuro. Temo che se venissi il buio mi impedirebbe di vedere qualsiasi cosa. Ci sarà più luce domani. Domani sarò di nuovo in partenza con Glambeck, diretto a sud. Sono venuto solo per un giorno. Ero curioso di vedere un interno domestico di provincia. E ora arrivederci. Oh, ma il consiglio che vi do è molto serio. Una persona non può chiudere gli occhi e mettersi a dormire mentre la processione di uomini e donne che fanno girare il mondo sfila sotto il suo naso. A meno che, e così dicendo, lasciò scorrere lo sguardo sulla figura priva di ogni eleganza, sul modo disordinato in cui quel cappotto senza forma era tenuto chiuso. Uno desideri buttare la propria esistenza alle ortiche. Oh no! Esclamò Ingeborg accalorandosi. L'ultima cosa che desidero è buttare. Allora non fatelo. Arrivederci. Si levò il cappello e quando se lo rimise era già a parecchi passi di distanza. Poi si voltò e gridò alla figura dall'aria abbattuta sulla strada sabbiosa, i cui contorni erano già resi irriconoscibili dalla cortina di grigia nebbia che si andava levando. Ricordatevi che è dovere di ognuno conoscere almeno parte di quanto avviene nel mondo. Indi balzò via verso casa Glambeck. Ingeborg si soffermò per parecchio tempo, fissando il punto dove l'oscurità l'aveva inghiottito. Meraviglioso aver trovato qualcuno con cui parlare veramente, che sapesse dire che cos'era necessario fare. Si avviò verso casa, decisa a porre fine al più presto alla sua ignoranza, sentendosi improvvisamente determinata e coraggiosa e alzando il mento in aria in posizione spavalda. Malata o non malata, non si sarebbe lasciata sconfiggere e non avrebbe aspettato nemmeno un giorno prima di iniziare a nutrire la sua mente priva di ogni conoscenza. E sentirsi così ignorante, così poco istruita, ora le appariva mostruoso. Si chiese di che pasta fosse fatta, di quale materiale scadente, se non faceva altro che piangere solo perché non si sentiva più bene come prima. Non vi erano forse centinaia di cose di cui occuparsi anche quando si stava male? Non aveva lei stessa sentito di persone malate, la cui mente trionfava sul corpo infermo e che, costrette eternamente a letto, riuscivano comunque a diffondere gioia in tutta la comunità? Scrisse alla Moody quella sera stessa, richiedendo i cataloghi quasi con ferocia, e come prima mossa ordinò un abbonamento allo Spectator e al Liber Journal, che erano stati menzionati da alcuni prebendari di Rochester in sua presenza. Quando arrivarono, Ingeborg li lesse avidamente da cima a fondo, poi ordinò tutte le riviste mensili che vi venivano pubblicizzate. Si abbonò subito al Times e a un settimanale intitolato Clarion, dato che era citato in una delle altre riviste. In breve, seppellì la Maude di cartoline postali, ordinando qualsiasi libro di cui le capitasse di leggere, decidendo che quello era un modo come un altro per intraprendere il cammino verso la meta che si era prefissata. E non era passata nemmeno una settimana di lettura dei giornali, quando le capitò sotto gli occhi il nome di Edward Ingram. Una grande luce si accese dentro di lei. Oh! Esclamò con un piccolo sussulto, sentendosi avvampare. Non le restava che prendere atto che, evidentemente, era stato l'incontro più interessante di tutta la sua vita. Capitolo 22. In 7 anni Ingeborg ebbe 6 figli. In quel periodo comprese in modo approfondito che cosa significassero le parole del Salmo riguardo alla ricompensa per un uomo buono. Ella era diventata la moglie prolifica che, come la vite ubertosa, si arrampica per le pareti di casa. Era ininterrottamente prolifica. Allungava i suoi tralci ovunque. Si vide dapprima con sorpresa, poi con rassegnazione avanzare fino alle gronde della piccola casa e crescere senza posa, così compatto e lussureggiante da minacciare di intasare i camini. Ella prese a deplorare quella continua abbondanza, non potendo non vedere che lì sotto il tetto iniziava a marcire un poco, lasciando filtrare, malgrado i suoi deboli sforzi per tenerla fuori, la lugubre pioggia dello sconforto, una pioggia che offuscava la lucentezza di ogni cosa. La servitù più qualificata si rifiutava di prestare servizi in una casa così brulicante, i bambini più grandi soffrivano a causa dei nascituri. Era un peccato, considerò, che nel generare un nuovo bambino una donna non potesse produrre anche una nuova madre affinché potesse essere accudito come lo era stato il primo. Ingeborg riusciva a rammendarle le loro calze, dato che poteva svolgere quell'operazione sdraiata sul divano, ma mai a badar loro altrimenti. E bisognava sbrigare tantissime faccende, un'infinità di compiti vitali, se si volevano vedere i propri figli crescere e prosperare. E quando un figlio raggiungeva l'età giusta per poterla accompagnare nelle sue vagheggiate spedizioni a due, ella doveva annullare ogni programma, impegnata come era a fornir loro nuovi fratelli e sorelle, e dunque incapacitata a muoversi. I giorni fra il primo e il secondo figlio furono i migliori. Si sentiva ancora abbastanza forte da poter fare il bagno ogni sera a Robert e cucinargli la cena, oltre a tenerlo d'occhio per la maggior parte del tempo. Era l'unico figlio e un bambino particolarmente facile. Era così regolare, puntuale nelle sue abitudini che le sembrava quasi un orologio da caricare a intervalli regolari, sapendo che avrebbe continuato a ticchettare da solo fino alla carica successiva. I suoi vestiti erano tutti nuovi naturalmente e di rado necessitavano lavori di rammendo. Inoltre aveva ancora Else, che si sarebbe sposata solo un anno più tardi a servizio. Infine si era persuasa, dato che bisognava pur persuadersi di qualcosa, che dopo il secondo bambino ci sarebbe stata una pausa. Quella convinzione, insieme ai pochi ammonimenti che Edward Ingram le aveva offerto quel pomeriggio, l'aiutarono in modo straordinario. Bastava così poco a spronarla all'audacia e alla determinazione che riuscì a superare la maggior parte delle paure e dello sconforto, grazie alla nuova impresa di allenare la mente a trionfare sul corpo. Impresa affrontata macinando una sorprendente quantità di letture di vario genere per tutto l'inverno e per la primavera seguente. Pertanto, quando in maggio giunse la temuta ora, si avviò verso quella stanza funesta dove supponeva, anche se era determinata a non darvi peso, la morte fosse appostata per vedere se quella volta le riuscisse di ghermirla. Vi entrò quasi con temerarietà, i capelli già pettinati in due trecce che le ricadevano sulla schiena, il portamento eretto, gli occhi ben aperti e brillanti di determinazione e colma di quell'orgogliosa fermezza a non lasciarsi sconfiggere che aveva coltivato per i 6 mesi precedenti. Ciò nonostante, fu sconfitta. Era l'assenza di interruzione a logorarla. Secondo l'augurio tedesco, Ingeborg era venuta a trovarsi in una condizione di ininterrotta benedizione, nonché di crescente anemia. Indebolita dalle continue gravidanze, le sue energie presero gradualmente a scemare, non lasciandole più nemmeno la forza di leggere. Le prime letture a essere sacrificate furono le più difficili. Il Gibber Journal fu eliminato quasi subito. Poco dopo toccò al Times venir contemplato con occhio spossato e restare chiuso. Il National Review le dava il mal d'orecchi. In breve tempo si sentì troppo stremata persino per lo Spectator. Il Clarion durò più a lungo, ma una crescente avversione per i suoi toni fu causa anche di quell'abbandono. Ingeborg, infatti, stava diventando sempre più religiosa. Aveva smesso di criticare continuamente, di chiedersi perché, seduta per ore e ore, meditava sulle attrattive della quiescenza, pratica che le donava una sorta di mellifla soddisfazione. Tanto più si accentuava l'anemia, quanto più facile le appariva la scelta della religione. Aveva scoperto che rimanere passiva, arrendersi, non pensare, non dover decidere, non chiedersi mai la spiegazione delle cose era di gran lunga meno estenuante. Era lodata da tutti. Che bello! La baronessa Glumbeck approvava in pieno, Frau Dorsch la elogiava a gran voce. L'anziana Frau Dremmel si recava da lei in visita 2 volte l'anno per apprezzare in quel suo modo silenzioso la madre di una progenie così straordinariamente simile a lei. E per quanto riguardava Cook in sé, l'intero villaggio la guardava con il rispetto dovuto a un personaggio diventato leggendario. È vero che Robert sembrava amarla sempre meno, nonostante l'evidente desiderio di lei di sentirsi amata più che mai ora che dimostrava di condividere appieno le sue congetture sui disegni della Divina Provvidenza. Anche se tutto sommato, forse quell'affermazione era ingiusta, dato che in realtà nessuno avrebbe potuto dimostrarsi più gentile di lui quando non era occupato. Però era occupato da mattina a sera. Che bello non far nulla, pensava Ingeborg, standosene a braccia conserte, sebbene avesse sempre apprezzato la condizione opposta, cioè l'essere affaccendata, l'essere assorbita in mille interessi diversi. Dei suoi sei figli, Robert le crebbe sano e forte, e così la sorella che venne dopo di lui. I due successivi morirono, uno con impudenza di orecchioni, un evento mai accaduto prima, che catturò un interesse enorme da parte del dottore, il quale riuscì a prevedere per il piccolo un futuro memorabile qualora fosse riuscito ad averne uno. L'altro, in modo ben più comprensibile, cadendo dal barchino, proprio quando la sua esistenza dipendeva così tanto dallo starvi dentro al sicuro. Poi presero a nascere morti, accadde a due figli in successione. Fu dopo il secondo bambino nato morto che Ingeborg raggiunse i livelli di vitalità minimi, riuscendo a malapena a pronunciare una frase che non riguardasse il paradiso. Quando, pur avendo lasciato il letto già da 2 mesi ed essendo tornata ad indossare abiti da giorno, non faceva altro che giacere sul divano e vagheggiare di argomenti a tema religioso. Erdrem, benché dotato di enorme pazienza, divenne consapevole di una certa atmosfera da camera ardente ogni volta che, animato dall'ignara vivacità dell'uomo onesto che si accinge a cenare, entrava in salotto. Pensò allora che sarebbe stato meglio convocare il dottor di Moek, oramai diventato una presenza costante in famiglia, per un consulto. Fu così che Ingeborg venne inviata a Zoppot, una pittoresca stazione balneare, celebre per le sue virtù ricostituenti, vicino ad Danzica, lasciando casa per la prima volta da quando si era sposata. Ci andò con tutta la riluttanza residua in una persona ormai priva di ogni volontà e solo per adempiere alla prescrizione del medico, caparbio e incurante della sua lacrimosa posizione, che non le permise neppure di portare Robertlet ed Itty con sé. L'accompagnò invece l'infermiera, che l'aveva aiutata dopo la nascita di Robertlet. Avrebbe dovuto soggiornare al mare per i mesi di giugno e luglio, ma anche agosto e settembre se fosse stato necessario. «Ma come farà la mia famiglia senza di me?» continuava a chiederle con un filo di voce. «E tutte le mie incombenze? Come posso abbandonare tutto?» Al momento della partenza aveva il viso inondato di lacrime. Diede dei piccoli oggetti in suo ricordo a entrambe le domestiche, poi mandò a chiamare il sagrestano, con il quale ultimamente aveva sviluppato rapporti di stretta amicizia, e tentò di parlargli senza però riuscirvi. Strinse al seno gli impassibili Robert e Titti, così tante volte che essi si sentirono quasi spronati a ribellarsi apertamente. Le preghiere, non dimenticate quello che la mamma vi ha insegnato, raccomandò loro piangendo, come se li stesse lasciando per sempre. Robert caro, pronunciò tra i singhiozzi aggrappandosi a lui e tenendo la guancia contro la sua mentre sostavano sul binario a Moek dove si era recato per accompagnarla al treno. Perdonami se sono stata una cattiva moglie. Io ci ho provato. Non dimenticare mai che io ci ho provato. L'infermiera le diede un cucchiaio di preparato ricostituente brand. Il viaggio risultò essere una guerra ingaggiata dal preparato contro la sofferenza. Per tutto il percorso ogni ricaduta nel dolore veniva interrotta all'istante da una somministrazione di preparato. Fu soltanto la sera, quando finalmente ebbero raggiunto la piccola pensione sulla spiaggia, che sarebbe divenuta la loro dimora per i prossimi 2 mesi, e dove Ingeborg, aprendo la finestra, diede in una piccola esclamazione di sorpresa nel venire investita dalla dirompente freschezza e dal profumo della salsedine, che l'infermiera gettò via quanto rimaneva del barattolo e ripose ogni speranza di guarigione unicamente nei poteri del mare. Erdrammel tornò nella sua casa vuota in uno stato d'animo meditativo. Mentre sobbalzava nella stessa carrozza, solo diventata più vacillante, quella quale aveva portato a casa la sua sposa 7 anni addietro, egli si lasciò andare innanzitutto a un breve istante di stupore per gli alti e bassi delle donne. Passò poi a riflettere sulla superiorità sulla superiore affidabilità dei composti chimici. Indi proseguì col corso di pensiero dicendosi che la vita di un uomo, come un bel fazzoletto, doveva avere delle decorazioni ai bordi e che non vi era decorazione migliore della famiglia. Ingeborg, nonostante i suoi alti e bassi, era stata una buona moglie. Egli non si era pentito di averla scelta quale ornamento per decorare gli orli della sua esistenza, benché egli avesse fatto la sua parte comportandosi da buon marito. Pochi matrimoni, considerò, risultavano armoniosi e ben riusciti come il loro. Lui l'amava nel modo in cui ogni uomo onesto ama la propria moglie, vale a dire a intervalli di tempo scanditi con assennatezza. Aveva sempre provato dell'affetto per lei e regolarmente apprezzata la sua compagnia, ben inteso quando lei godeva di buona salute. Il suo denaro, ogni moglie avrebbe dovuto averne un po', l'aveva aiutato parecchio, o per meglio dire, aveva reso possibile il successo che aveva coronato i suoi sforzi. Inoltre lei gli aveva dato un figlio all'anno, e se ne rendeva conto era il massimo rendimento possibile, una quota che lo rendeva totalmente rispettabile agli occhi della comunità. Che quattro di quei figli non fossero riusciti a rimanere vivi e che i due rimasti avessero una rassomiglianza così formidabile con sua madre, una donna detta di tutti ottusa, era di certo una sfortuna. Nella vita però non bisognava indugiare sulle sfortune, bensì girar loro le spalle, allontanarsi e mettersi al lavoro. Il perno centrale dell'esistenza, il sommo valore, si disse mentre giungeva a casa, appendeva il cappello in corridoio e si dirigeva verso il laboratorio per dedicarvisi con rinnovato vigore, era il lavoro. Ciò nonostante, si disse anche mentre oltrepassava la porta aperta del salotto, il cui disordine gli fece rammentare le gioie del focolare domestico, che un uomo doveva pure allontanarsi di tanto in tanto dal calore intenso e dal riverbero abbacinante emanati dal lavoro e riposarsi gli occhi presso una luce più attenuata. E che era quindi necessario possedere un luogo dove rilassarsi, ove la pressione esercitata dai propri interessi fosse meno accentuata. Un circuito di relativa tiepidità che circondasse il nucleo dell'esistenza. A tale necessità sopperiva in modo eccellente la cosiddetta cerchia familiare. Quanto più un uomo lavorava con foga, quanto più accanitamente inseguiva il fuoco della conoscenza, tanto più urgeva il bisogno di intervalli di minor calore. Allora bastava cercare la propria moglie, lasciar riposare la mente in sua compagnia, poi prendere il proprio figlio sulle ginocchia e magari dare una tiratina di trecce alla figlia. La vita, per Erdrämmel, era semplice e meravigliosa al tempo stesso, e durante quei 7 anni di matrimonio l'era diventata sempre più. Egli rammentava che in certi periodi, prima di sposarsi, aveva perso di vista quella verità, assorbito com'era in una confusa, persistente bramosia. Periodi in cui si stupiva ora di ricordare quando i cespugli di lilà in giardino erano in fiore e le giovani piantine di mais spuntavano sotto i caldi raggi del sole primaverile. Il suo laboratorio, quel luogo di speranze e visioni future, gli era parso sterile quanto un mucchio d'ossa. Il matrimonio aveva scacciato tali distorsioni di percezione, regalandogli 7 anni di piena fiduciosa consapevolezza nella bellezza e semplicità della vita. La corazza di Herr Dremel era costituita dalla determinazione a conseguire i propri obiettivi. Mai se n'era spogliato per mostrare la minima debolezza. Non una volta. Mentre Ingeborg, in un angolo remoto della casa, era in pena per tema di averlo ferito, oppure offeso, o per avergli fatto credere di non amarlo. Egli si era sentito ferito, offeso o non amato. La sua esistenza era totalmente assorbita in cose grandiose, pensieri grandiosi, valori grandiosi. Nella sua mente non vi era spazio per meditare su argomenti di ordine minore. Le giornate non erano abbastanza ampie per la grandiosità che avrebbero dovuto contenere, e a lui non era mai nemmeno balenato per la mente di dover utilizzare parte di quello spazio già molto limitato per chiedersi se si sentisse ferito. I suoi occhi attenti, che con diligenza scrutavano, paragonavano e commentavano i diversi fenomeni, non avevano tempo per l'introspezione. Man mano che gli anni passavano e la sua pazienza veniva premiata con il successo, la sua dedizione e il suo asservimento al lavoro divennero sempre più tenaci. Questo si disse perché un uomo non ha a disposizione che una manciata di anni e non può permettersi durante quel breve lasso di tempo di vivere ponendosi troppi quesiti. Herr Dremmel stava carpendo il massimo dalla conoscenza della natura, che ogni anno chiedeva solo di essere obbligata a svelarsi. Andava via via accumulando esperienze, conoscenze di un valore e di un grado di interesse così elevati che in confronto tutte le altre questioni gli apparivano inezie di nessun conto. Il giorno morente veniva subito dimenticato, obnubilato dalla curiosità per quello presente. Il futuro si sostanziava in ciò che il suo pensiero andava senza posa analizzando e occhi avvezzi a mirare con sempre crescente trasporto visioni maestose articolate, non potevano perdersi a osservare, e in vero sarebbe stato un biasimevole spreco il mutevole andamento degli umori, ad esempio, dei membri di una famiglia o di una comunità parrocchiale. Moglie, figli e i membri della comunità parrocchiale non erano che un ornamento dell'esistenza, semplici imposizioni sociali e mezzi di sussistenza. Erano ciò che un uomo ha in aggiunta a tutto il resto. Ma solo in aggiunta. Durante gli anni trascorsi, Herr Dremmel aveva addestrato il gregge della sua parrocchia alla riservatezza, offrendo in cambio la sua discrezione. Tale atteggiamento contribuì a rendere il suo regno più saldo che mai in seno a quella congregazione, il cui unico desiderio era di essere lasciati in santa pace nonostante gli occasionali segnali di nervosismo da parte del barone Glambeck, che a intervalli regolari, adducendo il pretesto che la parrocchia stesse acquisendo costumi pagani e mostrando con presuntuosa soddisfazione le prove evidenti delle sue affermazioni, si sforzava di persuadere le autorità preposte a trasferirlo ad altra sede. E per quanto riguardava sua moglie e i suoi figli, egli guardava loro con benevolenza, come le necessarie fondamenta della sua esistenza, la cantina ariosa che teneva la struttura soprastante, sicura e asciutta. Era necessario averne una, e un uomo si rallegrava se era in buone condizioni, ma si guardava bene dall'utilizzarla per viverci. Quale persona saggia e desiderosa di compiere un'azione encomiabile prima di essere sopraffatto dagli impedimenti della vecchiaia, aveva progettato la sua vita in modo da contenere amori in una quantità così perfettamente dosata da consentirgli di dimenticarsi dell'amore stesso. Non era, come aveva scoperto fin troppo bene da quando si era sposato, rinunciandovi, bensì avendone la giusta quantità, che era possibile sgombrare la propria mente dal desiderio. E solo una mente sgombra da ogni brama raggiunge il ragguardevole obiettivo di aiutare il mondo ad avanzare più velocemente nel cammino verso la luce. Per alcune settimane dopo la partenza della moglie, Herr Dremmel fu del tutto inconsapevole della sua assenza. Si era in giugno, un mese di numerosissimi impegni perché possiede campi di coltura sperimentale e i piccoli disagi patiti a casa, come ad esempio pasti non puntuali e mal serviti e stanze la cui patina di polvere si inspessiva con il passare dei giorni, non avevano mai catturato la sua attenzione. Emergeva dal suo laboratorio dopo una mattina di buon lavoro nello stesso stato d'animo in cui lo sposo novello emerge dalla camera da letto, vale a dire quello di una persona che non si lascia turbare dai dettagli, mangiando con appetito qualsiasi cosa trovasse a portata di mano, per dirigersi poi senza indugio verso i suoi campi ancor prima che Robert e Letty Ditty fossero riuscite ad avere la meglio sui lacci delle bavaglie e avessero finito di recitare la preghiera di ringraziamento. I bambini, comunque, non approfittavano per nulla di quella situazione in cui venivano lasciate a se stessi. Robertlet non si girava verso Ditti per sottrarle la cena. Ditti si atteneva dal trafugare una seconda porzione di pudding per nasconderlo in tasca e ristorarsi durante le lunghe ore pomeridiane. Sedevano in silenzio, consumando il pasto, non usando la forchetta, bensì il coltello, dato che solo quest'ultimo, e non certo una forchetta, era presente nel sangue che scorreva nelle loro vene. E non si lamentavano se i bocconi che avevano inseguito in tondo per il piatto lungamente con attenzione finivano per cadere fuori, capitombolando sulla tovaglia. Erano bambini pazienti e quando ciò accadeva senza alcun commento, posavano i coltelli sulla tovaglia, raccoglievano i pezzetti di cibo con le dita e se li portavano alla bocca. Alla fine del pasto, Ditti recitava la preghiera di chiusura come sua madre le aveva insegnato, avendo officiato Robertlet quella di apertura. Entrambi in piedi dietro la propria sedia a occhi chiusi, mentre la bambina in lingua tedesca si faceva portavoce presso il creatore della loro gratitudine per aver voluto dimostrare la sua amicizia sedendo al loro desco. Al momento dell'amen, pronunciato all'unisono con Robertlet, non piombavano subito uno addosso all'altro per ingaggiare una lotta furiosa, come avrebbero fatto altri bambini sazi di carne e pudding, ma lasciavano la stanza con passo composto per dirigersi subito della domestica rosa, che se vi fosse stata la necessità di averne una, sarebbe stata la loro bambinaia. Indi le chiedevano di accompagnarli alla loro stanza e di controllare che si lavassero i denti a dovere. Passavano poi il pomeriggio a comportarsi bene. Re Dremel, dunque, a causa del buono stato di salute e della condotta irreprensibile dei suoi figli e incurante del proprio grado di benessere, non era afflitto da alcuna preoccupazione domestica, come poteva accadere ad altri uomini le cui mogli erano lontane. Non fu che sul giungere del termine del mese di luglio, quando una prolungata siccità gli impose un periodo di inattività, che l'immagine di Ingeborg cominciò a insinuarsi attraverso le crepe che andavano a prendersi nella sua mente concentrata. Inizialmente pensò a lei come madre, ricordandola appesantita, costantemente in convalescenza e in attesa di una nuova maternità. Quanto prima però prese a ricordarla come moglie, come complemento e mezzo di distensione di un uomo che usciva stremato di fatica dal suo laboratorio. Vista in quella luce, sua moglie sembrava divenire sempre più radiosa e leggiadra. Pertanto, quando ricevette una lettera dove gli chiedeva il permesso di rimanere un'altra quindicina di giorni, così da poter completare la cura, l'immagine di lei era ormai così fulgida che ne fu estremamente rammaricato. Le scrisse, concedendole licenza di rimanere, scoprendo al contempo che la casa gli appariva vuota e che 15 giorni erano un periodo di tempo incredibilmente lungo. Camminava avanti e indietro per il giardino, fumando sotto i tigli, nel punto in cui loro due solevano far colazione in un umore assai gaio, dimentico di come la moglie fosse stata lenta di movimento e intorpidita di mente per svariati anni di fila, di quanto poco l'avesse vista in quel lasso di tempo e di quanto il suo atteggiamento nei confronti di lei fosse andato improntandosi a un'infinita pazienza. Nel rientrare in casa per la cena di malumore, dato che all'improvviso le vivande non incontravano più il suo gusto, con lo sguardo si scopriva cercare non la figura che si era abituato a vedere sul divano, accasciata e silenziosa, bensì la personcina svelta e leggiadra, per il suo frullar d'ali che soleva ridere e tirargli l'orecchio, la sua Ingeborg dei vecchi tempi, la sua pecorella.